Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Andiamo questa sera in Friuli Venezia Giulia per raccontarvi un caso peculiare. Il caso è quello dell'ospedale di Udine, che è al centro di un progetto, per così dire, di riqualificazione energetica, però decisamente all'avanguardia. All'avanguardia soprattutto per il modo in cui si è relazionato alla città, il modo in cui ha interpretato il ruolo dell'ospedale all'interno del tessuto cittadino. E parliamo, questa è l'unica premessa che voglio fare prima di presentarvi l'ospite, parliamo di trigenerazione, ovvero di generazione contemporanea di energia elettrica e calore, oppure anche freddo a secondo delle esigenze. Bisogna qui ricordare che ogni volta che si produce energia elettrica bruciando qualcosa, e non importa che cosa, si produce anche molto calore che normalmente viene disperso e che invece può essere utilizzato, e qui sta il risparmio energetico, per il riscaldamento ma anche per il raffreddamento grazie a delle speciali macchine frigorifere, si chiamano frigoriferi ad assorbimento, che consentono, e qui passatemi diciamo la semplificazione un po' estrema, di trasformare, per così dire, il caldo in freddo. Ecco, spero che per questa semplificazione non se la prenda soprattutto l'ospite di questa sera, che è il professor Gioacchino Nardin, ordinario di impianti industriali dell'Università di Udine, dove è anche la delega all'energia. Buonasera Nardin. Buonasera Melis. Allora Nardin, iniziamo spiegando insomma un po' meglio di che cosa stiamo parlando. Cosa sta succedendo all'ospedale di Udine? All'ospedale di Udine sta succedendo questo. In qualità di delegato del rettore all'energia, che è un delegato anche per le problematiche esterne come terzo servizio dell'università al territorio, quando mi sono reso conto che dovevano fare una potente ristrutturazione dell'ospedale, ho detto questa è l'occasione per valutare se è possibile fare un impianto trigenerativo, cioè un impianto, praticamente sono dei grossi motori che producono l'energia elettrica, e il calore di raffreddamento dei radiatori viene utilizzato prima per fare caldo e poi, se necessario nel periodo estivo, di fare anche la refrigerazione. Certo, quindi parliamo di una macchina che sta dentro l'ospedale, che produce l'energia elettrica per l'ospedale e anche riscaldamento e raffreddamento per l'ospedale. Sì, e la peculiarità è importantissima, è che parte di questo calore, una gran parte, viene veicolato all'esterno dell'ospedale e dà energia al territorio attraverso una rete di teleriscaldamento, una sorta di grosso impianto di riscaldamento con tubi di andata e ritorno, che invece di avere i radiatori ha i condomini. Questo io credo che sia l'unico caso in cui l'ospedale potenzia i suoi impianti per dare energia al territorio. Ecco, proviamo a dare qualche numero, per esempio quanto risparmieranno questi utenti dell'energia prodotta dall'ospedale, e poi mi interessa capire se questa situazione è frutto, come dire, di una serie di casualità, ecco, se invece si può immaginare di replicare un modello di questo genere anche altrove. Cominciamo dai numeri. Ecco, i numeri sono la rete di teleriscaldamento, che è una caratteristica peculiare, sono circa 14 chilometri, la potenza termica sono 74 megawatt, la potenza frigorifera ad assorbimento e non, perché ci sono anche gruppi tradizionali, sì, 30 megawatt frigoriferi. Ecco, proviamo però a quantificare questi megawatt, come dire, in utilizzo. Per esempio, quante famiglie potrebbero ricevere il riscaldamento circa così? 7.400 appartamenti, okay, come ecco, riscaldamento all'incirca. Sì? Quanto risparmieranno le famiglie utenti rispetto alla caldaia gas, per intendersi? Nell'intorno del 10% dei costi attuali. D'accordo, e questi appartamenti potranno ricevere anche il fresco d'estate, potranno anche essere condizionati? In questo no, perché a meno che ad esempio nelle centrali più grandi, come ad esempio l'università o il Palamostre, che è un centro polifunzionale qui di Udine, lì potrebbero installare delle macchine ad assorbimento, chiamiamole periferiche perché sono fuori dalla centrale, sì, possono fare il freddo al caldo. E cioè questa voi è portate una valutazione che faremo eventualmente in una fase successiva. Ecco, questo è interessante. Cioè la rete di teleriscaldamento viene utilizzata per pompare un fluido caldo, poi chi riceve questo fluido caldo, invece di scaldarci d'estate, lo utilizza per alimentare uno di questi frigoriferi e quindi ci fa il raffrescamento. Esatto, è un modo anche di estendere. È possibile anche per i piccoli utenti, però economicamente è generalmente conveniente per impianti di una certa dimensione. È chiaro. Senta, allora è replicabile un modello di questo genere? Ci sono tanti casi di ospedali che si trovano in mezzo a una città che potrebbero fornire questi servizi agli utenti. Ecco, una delle peculiarità concettuali di questo impianto è che è un impianto di sistema. Ci vuole un'alleanza tra utenti e fornitori, ci vuole un'ottica di sistema in altri termini, e noi non siamo abituati in Italia a ragionare in termini di sistema. Ricordiamoci che i costi dell'energia elettrica aumenteranno, per cui verremo spinti sempre di più verso queste soluzioni. Oggi in Friuli Venezia Giulia si spende circa 25-30 milioni di euro all'anno di energia, solo di energia consumata. Parliamo degli ospedali? Degli ospedali del Friuli Venezia Giulia, okay. Con un trend di crescita di 2,5-3 milioni di euro all'anno. Quindi il 10%. Non solo, ma questo trend di crescita è triplo di tutti gli altri beni e servizi in termini statistici, per cui bisogna cogliere l'occasione di ogni struttura ospedaliera nuova o dove si fanno fondamentali ristrutturazioni per addivenire a questo tipo di soluzione tecnica. Va bene, grazie Nardin. Arrivederci, benissimo. Bene, per stasera è tutto, l'appuntamento è per domani, stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio 24. Buona serata.